Oh, oh, eh, eh, oh, oh, oh, eh, eh. Ho la musica nel cuore, tutto il resto all'occorrenza, che mi gonfia il buon umore. Quando ho il cervello storto, questo andazzo mi riporta nelle notti là in provincia. Ogni nota ha una faccia, si ascoltava solo rock. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ho la musica nel cuore, fa ballare l'ascensore, fa tremare le candele, fa venire tanta voglia. Si addormenta anche il bambino e ci scappa il fratellino. Tutto questo ben di Dio, tutto questo ben di Dio, tutto questo bene ha. A chi va, a chi va. Musica nel cuore, e ho negli occhi la mia vita, dal mio grattacielo bianco, da un ottavo piano stanco, progettavo e mescolavo, davo baci ma sentivo, sempre il suono principale, si faceva solo rock. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. A chi va, a chi va. Tengo l'orologio un quarto d'ora indietro, ho un quarto d'ora al giorno di vita in più da fare. Sono un sognatore, frequento molte vite, ho un ego da smaltire. Se mi senti, canta insieme a me. L'occasione mia più grande per aver la vita accesa, per non essere il riflesso di una luce poco mia, dolce vergine amorosa, ti han promessa proprio a me. Ho sposato solo te, ho sposato solo te. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ho sposato solo te. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ho sposato solo te.